Hadith numero 40 da Ibn Umar, che Allah sia compiaciuto di ambedue, disse: l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse dopo avermi preso per la spalla: sii nel mondo come uno straniero o un viandante. E Ibn Umar, che Allah sia compiaciuto di ambedue, era solito dire: quando hai fatto sera non aspettare il mattino, e quando hai fatto il mattino non aspettare la sera, approfitta della tua salute per la tua malattia e della tua vita per la tua morte. Lo ha riferito l'imam al-Bukhari.